Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi da Nicoletta, oggi è giovedì e vi invito a Mangia con me, accomodatevi che c'è posto per tutti, ma soprattutto io vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad andare sul nostro sito a compilare il questionario, perché le selezioni continuano, i nostri esperti proprio di settimana in settimana sceglieranno uno di voi per farlo diventare protagonista della nostra puntata e poi naturalmente si impegnano a seguirlo per 8 settimane per convincerlo e soprattutto aiutarlo a mangiare bene per stare meglio. Ma oggi voglio darvi una buonissima notizia per tutti voi che avete compilato il questionario e per chi lo compilerà da adesso in poi: 2 smartbox in regalo. Per riceverle dovete seguire Mangia con me ogni giovedì, ma naturalmente seguirete anche le altre puntate di Essere Benessere, mi auguro. E quando a Mangia con me il giovedì sentirete questo suono, inviate rapidamente un sms al 349-238-6666 con la mail con cui avete compilato il questionario. Tutto chiaro? Quindi state pronte, i primi 2 sms che arriveranno dopo aver ascoltato il suono, lo ripetiamo, 2 smartbox in regalo. Intanto ascoltateci, continuate a farlo, scriveteci e andiamo a conoscere la protagonista della seconda puntata di Mangia con me. Silvia ha 42 anni, è sposata e ha una bambina. Vive a Torino e fa la traduttrice freelance di testi di finanza e marketing. Ha scelto di lavorare da casa e può così organizzare la sua giornata come più le piace. La mia giornata tipica inizia alle 7:30 con la colazione, porto la bambina a scuola, poi ho una mezz'oretta di tempo che dedico a me andando a prendere un caffè e facendo 2 chiacchiere al bar con qualche amica che trovo. Dopodiché si inizia a lavorare, pranzo quasi sempre da sola, apro il frigo e vedo che cosa è rimasto, o dalla sera prima o cosa posso mangiare, così senza cucinare, quello che c'è va bene. Se non ho tempo, anche solo uno yogurt o della frutta, se sono proprio di corsa e non mi alzo dalla sedia, dalla postazione di lavoro, diciamo. Lavorare da casa ha certo i suoi vantaggi, ma c'è anche l'altro lato della medaglia. Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica. Il fatto di lavorare da casa vuol dire non smettere mai, quindi uno deve essere anche capace di dire basta, ad un certo orario spengo il computer, non rispondo più al telefono, non assecondo le richieste pressanti dell'ultimo minuto. E mentre il cervello si arrovella, la bocca rumina. Io, essendo seduta qui alla scrivania, innanzitutto ho il frigorifero sempre a disposizione. Mi circondo sempre di caramelle, caramelline, chewing gum. Avverto il bisogno di masticare qualcosa così per riempire un po' forse questo tempo della mattinata, magari l'ansia del lavoro. Quello che mi capita sotto mano mangio, rumino più che altro proprio. 3x5, 25, 6x3, 33. Tra numeri e statistiche, traduzioni in francese o dall'inglese, lavori di casa e impegni di mamma, Silvia arriva a sera bollita e alle 10 crolla. Dormo quasi come bambini, 8 ore, 7 ore, perché se no l'avverto proprio il giorno dopo la fatica. Soprattutto al cambio di stagione io avverto una stanchezza notevole e allora magari, non lo so, compro degli integratori, pappa reale, ginseng, qualche cosa che mi dà l'idea di avere un pochino di carica in più. E Silvia è in linea con noi, benvenuta Silvia. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno ai suoi ospiti. Silvia, localizzati. Allora, sono seduta davanti al mio computer, alla mia postazione. Ho tolto le cuffie con cui ascolto sempre Radio 24 tramite internet mentre lavoro e sono al telefono con voi. Fantastico, in linea con noi abbiamo il dottor Ongaro che da oggi lavorerà al tuo fianco per aiutarti a trovare lo stile alimentare che fa per te, ma soprattutto ti lavorerà al fianco per convincerti a cercare e aiutarti a trovare nel cibo quello che ti serve per stare bene. Questa è la filosofia di Mangia con me. Dottor Ongaro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, lavorerò Silvia ai fianchi, ma in senso positivo, le starò anche un po' al fianco, insomma, diamole una mano, soprattutto per farle capire il ruolo fondamentale che il cibo ha nella salute, nella malattia, nel sovrappeso, ma anche nelle condizioni come le sue, in cui il cibo può essere fondamentale per trovare ritmo e energia nella vita. Ricordiamo sempre per Silvia, ma anche per tutti gli altri, che la nostra filosofia è che il cibo non va visto solo come calorie, ma in realtà si tratta di informazione molecolare che noi ingeriamo e che però ha una serie di compiti molto complessi nell'organismo, compreso quello di energizzare la nostra vita. E Nicoletta, a partire dalla quantità di questionari che stiamo ricevendo, credo che siamo arrivati a 1300. Sì, ma siamo contentissimi. Ecco, io penso che sia l'indicazione più importante del fatto che il tema cibo è centrale nella vita di tante persone, e tanti di questi questionari ci parlano proprio del problema dell'energia e della stanchezza, quindi non solo del peso. Allora, intanto invito i nostri ascoltatori da casa, con le cuffie, senza cuffie, o in movimento, fermi, a chiamarci all'800 24 00 24. Intanto Silvia, direi partiamo proprio da come ti senti. Questo darà modo ai nostri esperti di costruire per te un nuovo stile alimentare e soprattutto sarà utile a chi, riconoscendoti nel tuo profilo, vuole provare a stare meglio. Allora, quindi io farò delle domande a Silvia, ma provate a rispondere anche voi da casa. Se siete in sintonia con Silvia, seguitela e sostenetela. Silvia, come ti senti? Ma come dicevo nell'intervista, ho questo problema di avvertire proprio dei momenti di stanchezza, soprattutto alla fine della giornata, poi adesso in particolare durante il cambio di stagione, un affaticamento che insomma mi rende difficile stare un po' dietro a tutto, completare la giornata nella maniera migliore. Bene, questo è come ti senti, come vuoi sentirti? Vorrei sentirmi più energetica, un po' più frizzante, non so come dire. Sì, un po' più con qualche bollicina. Cosa ti spinge a cambiare, Silvia? Mi spinge il desiderio di stare meglio, di sfruttare un po' di più le possibilità che si hanno durante la giornata, di poter lavorare meglio, di utilizzare al meglio le energie, insomma. C'è qualcosa che ti frena? Beh, innanzitutto la pigrizia, ovviamente, e poi a volte il tempo che tiranno. Allora, noi abbiamo delineato un po' il quadro, abbiamo scoperto come si sente Silvia, magari anche voi da casa vi riconoscete nel suo profilo, quindi chiamate 800 24 00 24 e sostenetela, ma cerchiamo di capire anche come mangia Silvia. A colazione Silvia mangia tè con i biscotti secchi. A casa sua vanno forte quelli con lo zucchero granellato sopra. Dopo aver accompagnato la figlia a scuola, prende un caffè con le amiche al bar. Tornata a casa, si mette a tradurre. E quando sente un languorino, si alza dalla scrivania, va in cucina e mangia un frutto. Non potrà fare che bene. Intorno alle 2 del pomeriggio, Silvia va dritta al frigorifero per scoprire l'avanzo del giorno. E quando la figlia torna da scuola, è l'ora di fare merenda. Un pezzo di focaccia, un gelatino, un panino al cioccolato. Così arrivare all'ora di cena è più facile. Silvia, confermi? Sì, assolutamente. Ti abbiamo descritto sulle tue indicazioni in modo quasi perfetto, dottor Ongaro. Ma in che modo lo stile alimentare di Silvia può essere responsabile della sua stanchezza? Perché qua vogliamo andare. Ma Nicoletta, Silvia è un caso, devo dire, molto frequente, è un po' come se stesse sulle montagne russe, quindi passa da dei momenti di relativa energia che sono brevi, causati dall'introduzione del cibo, a dei momenti invece di lunga discesa e di difficoltà di recupero. È fa parte del suo quadro, i biscotti al mattino, la frutta a metà mattina, il pasto centrale della giornata invece poco strutturato e consumato un po' in fretta, il panino con la crema di nocciole a metà pomeriggio, il gelato, la focaccia, insomma è un costante tentativo di spingere in alto i giri del motore che però sì, salgono per un attimo, poi scendono e il motore batte in testa. Il problema centrale qual è? Quello che abbiamo menzionato varie volte in queste trasmissioni, che è quello della stabilizzazione della glicemia, cioè questa alimentazione zuccherina aumenta la glicemia ma allo stesso tempo fa sì che il pancreas debba continuamente lavorare per produrre insulina, la glicemia si riabbassa e quindi ecco la montagna russa, si va su e giù, in realtà bisogna stabilizzarla questa glicemia e quindi l'alimentazione per essere davvero energetica deve essere meno brusca e più stabile e due elementi sono molto importanti in quello che Silvia ci ha raccontato. Uno è sicuramente il pranzo, che per sì. lei è una cosa un po' poco strutturata. L'altro elemento fondamentale è proprio la colazione. Certo. Allora noi pensiamo di dare una mano a Silvia, chi si riconosce in lei, con i consigli della dottoressa Paola Reverso, che è in linea con noi, medico nutrizionista, presidente dell'associazione Il Me Più Te. Dottoressa Reverso, buongiorno. Buongiorno. Che cosa ha pensato allora per Silvia? Allora, prima di tutto togliamo i biscotti e mettiamo delle fette biscottate integrali. Possiamo scegliere quelle all'olio extravergine d'oliva, si trovano facilmente. Perché l'olio extravergine d'oliva? Perché il nostro olio italiano, e ben venga. E poi potremmo mettere, visto che ama la colazione dolce Silvia, potrebbe provare delle composte di frutta. Perché composte? Perché sono senza zucchero. Questa è l'alternativa più semplice con quello che Silvia può trovare facilmente. Nel menù Silvia troverà, lei al suo programma con tre menù, troverà anche una colazione un po' diversa con i fiocchi d'avena e con i semi di lino. Perché i semi di lino? Potremmo anche usare delle nocciole, delle noci, delle mandorle? Sicuramente sì, ma i semi di lino sono ricchi di acidi grassi omega 3. Diciamo che sono il nostro pesce vegetale, quindi utili anche per chi non ama il pesce. Pensate che in 100 grammi di semi di lino sono contenuti ben 50 grammi di acidi grassi omega 3. Veramente delle bombette? Delle bombette, ma cosa servono questi acidi grassi omega 3? Perché sono importanti per Silvia, che fa un lavoro impegnativo dal punto di vista cerebrale. Perché gli acidi grassi omega 3 sono i costituenti delle nostre membrane cellulari, dell'involucro che riveste la cellula, e le danno fluidità, elasticità. Pensate che il cervello è l'organo più ricco di grassi, secondo solo al tessuto adiposo. Quindi noi pensiamo, quindi memorizziamo, lavoriamo con i grassi quando lavoriamo con il cervello. Ecco perché gli acidi grassi sono importantissimi. Silvia, hai mai provato i semi di lino? No, sono molto curiosa. Sai di che la dottoressa Reverso ci racconta di che cosa sanno, che sapore hanno, se sono buoni, se sono... I semi di lino hanno un sapore di nocciola, sono molto gradevoli, sono piacevoli, piacciono tanto anche ai bambini, visto che Silvia ha una figlia. Quindi si possono mettere anche nelle insalate? Delle insalate, si possono mettere anche nei cereali. La cosa importante è che non vengano cotti, perché gli acidi grassi omega 3 e anche le vitamine sono liposolubili, contenute nei semi di lino, sono molto sensibili al calore. Ma li consigliamo quindi, dottoressa Reverso, anche alle persone che non amano il pesce ma devono fare scorta di questi preziosi grassi. 100 grammi di semi di lino contengono infatti, ripetiamolo dottoressa Reverso, 50 grammi di acidi grassi omega 3. Ok, allora il programma di Silvia lo trovate naturalmente sul nostro sito, la dottoressa Reverso ha preparato dei menu e l'obiettivo è quello di accompagnare anche il gusto di Silvia alla scoperta di nuovi sapori, perché noi rispettiamo la tradizione sempre con un pizzico di innovazione, quell'innovazione che ci viene suggerita anche dai risultati di numerose ricerche. Abbiamo in linea con noi Maurizio che ci sta aspettando da Milano, buongiorno Maurizio, benvenuto. Buongiorno a voi. E la sentiamo con un po' di eco, potrebbe abbassare un po' la radio? Voilà. Ecco, spenta addirittura. Tutto nostro. Allora, Maurizio. Allora, il mio problema è che io sono un libero professionista, lavoro in proprio, però svolgo un'attività impiegatizio con un po' di movimento, diciamo, per quello che mi richiede il carico e scarico di materiale. Ho un'attività diciamo abbastanza intensa fisica, perché sono un corridore, un podista, e in questo periodo sto preparando una maratona correndo circa 60 km alla settimana di media. Con picchi di 70, infatti. Sì, diciamo, Maurizio, insomma, è quasi un atleta e andando al... Nonostante una dieta, un regime alimentare sbilanciato su carboidrati, mi sento stanco. Ecco, quindi è una sorta di Silvia al maschile, anche se Silvia, tu non sei una maratoneta. Assolutamente no. Comunque valgono anche i vari movimenti che noi facciamo durante la giornata per andare a mettere i panni in lavatrice, passare l'aspirapolvere, scaricare la lavastoviglie. Dottor Ongaro, un consiglio al volo per Maurizio, anche lui è stanco, alla parola calo di energia si è attivato e ha chiamato l'800 24 0024. L'emergenza energia, ma io direi che nel caso dell'atleta quello che è stato detto è un po' una soluzione parziale, cioè lo sbilanciamento verso i carboidrati non è l'unica soluzione per avere energia. Io starei un po' più attento ai grassi e in particolare a scegliere quelli buoni. Ricordiamo sempre che i grassi, se sono sbagliati, fanno male, i grassi saturi di origine animale, ma per esempio i grassi poliinsaturi di cui parlavamo prima, i monoinsaturi dell'olio d'oliva, sono assolutamente essenziali anche per recuperare energia. Poi curerei molto bene il pasto dopo l'allenamento, e lì bisogna essere veloci a reintrodurre sia carboidrati integrali che proteine per riempire le scorte consumate durante delle corse così lunghe. Allora, dottoressa Reverso, a proposito di pasto, per il pranzo di Silvia abbiamo capito la colazione, e per il pranzo invece di Silvia, che è abituata a, per un po' di pigrizia, un po' per risparmiare tempo, poi noi donne lo sappiamo, dobbiamo sempre cucinare per gli altri, quando siamo da sole diciamo mi arrangio, je m'arrange, come... che cosa ha pensato? Beh, Silvia ha un grande vantaggio, che lavora in casa, quindi può cuocere i cereali, perché i cereali hanno una cottura abbastanza lunga, per cereali intendo tipo anche il riso, semplicemente il riso integrale, possiamo iniziare da questo che è più vicino alla nostra cultura, abbiamo comunque l'orzo, il farro, tutti i cereali, se andiamo a vedere le nostre origini gastronomiche le troviamo. Il vantaggio dei cereali integrali è, intanto possiamo usare la pentola a pressione, quasi tutti noi l'abbiamo, con la pentola a pressione dimezziamo i tempi di cottura. Poi, una volta cotti, possiamo cuocerne anche in grande quantità, li passiamo rapidamente sotto il getto dell'acqua fredda, in modo da togliere anche quel poco di amido che possono contenere. Li separiamo bene questi chicchi, li lasciamo scolare, poi li mettiamo in un contenitore a chiusura ermetica, non li condiamo e si conservano in frigorifero anche per una settimana. E quindi da lì minuto, Silvia può utilizzarli. Silvia, ti è chiaro? Sì. Cioè, te la senti? La pressione, ci provo, certo. Anche perché i cereali cuociono mentre tu lavori, non è che devi guardarli, no? Infatti, già almeno delle cose autonome, parzialmente autonome. Allora, a voi da casa piacciono queste idee che suggerite dalla dottoressa Reverso? Cosa ne pensate? Quali dei consigli di Paola utilizzate già? Quali vi hanno magari stuzzicato e pensate quindi di provare? I cereali da tenere pronti per utilizzarli? Questi semi di lino che stanno avendo grande successo, ci state scrivendo in tante, quali invece non seguirete assolutamente mai, parliamone, 800 24 0024 e andiamo anche al nostro quizzettone. Per fare il pieno di energia, Silvia a colazione deve mangiare cappuccino e brioche. Le calorie assunte di prima mattina si bruciano rapidamente, ma servono a carburare rapidamente. Fette biscottate, un frutto e un caffè. Meglio puntare sulla leggerezza per avere la mente libera. Pane, prosciutto e un tè, perché le proteine aiutano a reggere meglio la fatica. Pane integrale con crema di noci, yogurt magro senza zucchero con frutta fresca, per avere energia a lungo termine senza appesantirsi. Chiamateci 800 24 0024. dateci una risposta, argomentate. Abbiamo per voi due libri, uno del dottor Ongaro, lo conosciamo, Mangia con me, no, che non si mangia che ti passa, che dottor Ongaro, avevo confuso i due titoli. E qua la parola mangia sta diventando un lapsus per tutti noi. È un lapsus, è questo, magari freudiano. E un altro di Marco Bianchi, Le ricette dei magnifici 20, perché a Mangia con me, leggendo, oltre che ascoltando, si impara. 800 24 00 24, ricordo, cappuccino brioche, fette biscottate, un frutto e un caffè, pane prosciutto, un tè, pane integrale con crema di noci, yogurt magro senza zucchero con frutta fresca. Quale di queste colazioni serve a dare energia a Silvia e anche a noi? Essere e benessere. Mangia con me, seconda puntata, siamo tornati insieme. La protagonista di questa puntata è Silvia, che è in linea con noi, una giovane donna con il serbatoio dell'energia sull'orlo della riserva. Silvia, come ti senti adesso con tutte queste informazioni? Molto curiosa, molto... voglio provare, voglio vedere. Innanzitutto questi semi di lino mi incuriosiscono fortemente. Dirò subito alla mia arborista di procurarsi delle scorte. Delle scorte, così chiediamo anche alla dottoressa Reverso delle puntualizzazioni, perché tutti i passi per i semi di lino. Ecco, allora io... E poi anche sui cereali, se vanno assunti integrali o... Raffinati. Dottoressa Reverso, abbiamo bisogno di lei. Questi, iniziamo dai semi di lino. Dove si comprano? Quanti se ne possono mangiare? Hanno effetti collaterali? Ad esempio, possono essere un po' lassativi? Cambia se li mangiamo al mattino, al pomeriggio, alla sera? E poi cereali, sempre integrali? Allora, i semi di lino si trovano facilmente in tutte le erboristerie o nei punti vendita specializzati in alimenti biologici. Ok, sanno di noccioline. Sì, sanno di noccioline, hanno anche un costo economico, sono economici. Buona resa. Buona resa. Okay. Allora, possono avere un effetto lassativo? Intanto tutti i semi, semi di girasole, semi di lino, se mangiati in grandi quantità, possono avere un effetto lassativo, persino l'olio extravergine d'oliva. Quanti ne dobbiamo mangiare? Un cucchiaino al giorno, basta, no? Diciamo un cucchiaio al giorno, va ecco. Bene. Però okay, se vogliamo avere dai semi di lino un'azione lassativa, dobbiamo prenderli, naturalmente sto parlando dei semi di lino naturali, perché poi ci sono quelli dorati, ma questo è un altro discorso, io parlo di quelli naturali ed è quelli, secondo me, io sono più per la semplicità, mangiamoli naturali, la natura li fa così. Allora, se noi prendiamo dei semi di lino, un cucchiaio di semi di lino, e lo mettiamo in un bicchiere d'acqua la sera prima, la mattina beviamo quest'acqua e mangiamo i semi di lino, se abbiamo problemi di stipsi, possono aiutarci a risolverla. Altrimenti non sono lassativi di per sé, un cucchiaio aggiunto alle verdure o nella colazione anche non ha azione lassativa. Silvia, quindi stai tranquilla. Dottor Ongaro, cereali, dobbiamo sempre mangiarli integrali, vogliamo spiegare perché? Dobbiamo sicuramente prediligere la versione integrale, i motivi sono molti e sono sostanzialmente legati al fatto che il cereale integrale contiene la fibra, viceversa il cereale raffinato ovviamente contiene solo amido, quindi è fondamentalmente da un punto di vista nutrizionale inutile. La fibra ha molte ragioni di essere elevata nella nostra alimentazione, si stima che il quantitativo necessario vada dai 25 ai 35-40 grammi al giorno ed è difficile assumerla solo attraverso le verdure e la frutta, che peraltro hanno in prevalenza un'altra forma di fibra che è quella solubile, quindi i cereali integrali sono importanti. Nel caso di Silvia sono fondamentali per stabilizzare quella glicemia altalenante che è connessa con queste fasi di stanchezza. Ricordiamo anche a Silvia che la parte ovviamente psicologica è importante qui, cioè cerchiamo di tenere a casa il cibo giusto, perché lavorando a casa ogni volta che si va in cucina si corre il rischio di essere ovviamente stimolati ad assumere qualcosa che non è in linea con questa alimentazione. Quindi ecco, magari... quindi controlliamo anche quello che abbiamo in dispensa quando vogliamo voltare un po' pagine. Silvia, ad esempio nel tuo frigorifero adesso che cos'hai? Puoi anche puoi avvalerti della facoltà. Non sono una che fa grandi scorte, quindi compro un po' per volta, forse anche proprio per tenere a freno questa e quindi ho così, ho giusto qualche succo di frutta, qualche piadina, adesso non lo so, sicuramente qualche piadina. Non è proprio un alimento dietetico, la piadina, però è quello che salva magari qualche serata. Certo, perché anche da improvvisare. Senti, comunque Silvia, c'è una cosa che emerge un pochino dal tuo profilo, dal tuo racconto, che tu alla fine non hai tempo per te, insomma dovresti stare più attenta a te. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. Tanta gente che dovresti pensare a me e stare più attenta a te, è il consiglio degli alti e bassi per Silvia. E qua ne ho due dei cinque, ho Paolo che è il solista. Buongiorno di Nicoletta, buongiorno a tutti. Ed è tornata a trovarci Andrea, che abbiamo già conosciuto, e noi gli alti e bassi li avremo con noi per tutta la durata di Mangia con me. Sono un po' i nostri, come possiamo definire, la nostra colonna musica, la colonna sonora di più, un condimento se vogliamo, visto per rimanere anche bravo. Un condimento assolutamente naturale, ovviamente. Paolo, mi piace questa tua definizione, un condimento assolutamente naturale. Voi avete abbinato a Silvia un successo di Caterina Caselli, riletto, esatto, e riarrangiato proprio su misura per il vostro gruppo, perché così si fa, certo, nei gruppi a cappella, esatto. Voi siete tra l'altro cinque, tutti uomini, iniziamo a conoscerne due, poi vedremo gli altri tre. Sono anche meglio gli altri, ovviamente. Hai iniziato a mangiare quelli. Ma sì, assolutamente. Beh, che cosa possiamo dire? In effetti, ascoltando il caso, possiamo definirlo così in maniera impropria, di Silvia, emerge in effetti che una vita in cui la quotidianità, la frenesia, la stanchezza, la mancanza di tempo, spesso, ma credo che non sia un problema solo per Silvia, ma è comune a molta gente, ci si dimentica un po' di se stessi, no? Di dedicarsi un po' di tempo, e forse questo brano che ci caratterizza e ci accompagna un po' da un po' di anni vuole essere una sorta di suggerimento, di consiglio per Silvia di trovare più tempo per se stessa, dedicarsi un po' più di tempo. Silvia, noi consigliamo sempre ai nostri partecipanti di adottare il brano che gli alti e bassi hanno proprio pensato per loro un po' come colonna sonora del loro cambiamento, per cui tanto che lavori al computer, assolutamente alle 11 devi sentire Essere Benessere. Vabbè, e poi ti puoi, e poi su Caterina, vai su Caterina cantata dagli alti e bassi. Tra l'altro, Andrea, stavamo pensando prima di entrare in onda, sì, che Silvia fa un lavoro abbastanza simile al vostro, pure sì. Voi fate un lavoro abbastanza simile a Silvia, pur sembrando così lontani. Sì, infatti sembra lontano, in realtà lei si occupa di traduzioni, da quello che ho capito, e sicuramente Silvia può confermarci che spesso tradurre da altre lingue significa anche adattare, fare degli adattamenti. Lei lavora sul linguaggio e la musica è un linguaggio, anche noi alti e bassi adattiamo i brani, li trasformiamo. Adesso avete sentito Nessuno mi può giudicare, è diversa dall'originale, è una nostra adattamento, una nostra elaborazione. E c'è una tradizione lunga in Italia. Sì, in Italia è una tradizione che esiste da secoli, e in particolare noi possiamo dire non abbiamo in realtà inventato nulla, ci siamo noi stessi ispirati ad altri gruppi del passato molto famosi, permettimi di fare, non voglio uscire di tema, ma oggi nella giornata dedicata alle donne noi vorremmo lasciare un piccolo ricordo all'unica donna di un grandissimo gruppo vocale italiano che ha fatto sicuramente la storia della musica italiana, che è il Quartetto Cetra, e quindi vorremmo lasciare il nostro ricordo a Lucia Mannucci, che purtroppo è scomparsa ieri. Mi sto anche commuovendo a dirlo. Certo, perché voi siete abbiamo stati avuto un po' il privilegio adottati di conoscerla, sì, infatti. Grande donna, grande, sì, gruppo. Allora, intanto io passo subito la parola a Federico dalla provincia di Vicenza, Giovanni da Roma, Chicco da Milano. Federico, dobbiamo essere brevi prima delle informazioni sul traffico? Sì, salve. Volevo soltanto sapere, io sono un autista e sto seduto in furgone, si può dire, 9-10 ore al giorno. Sì. Non posso fare sport perché non ho proprio il tempo materiale per farlo, e a pranzo e cena comunque non mangio tantissimo. Ma cos'è quel non mangio tantissimo, Federico? Perché ciascuno di noi ha una libera interpretazione della cosa. Ha ragione. Per esempio, un piatto di pasta sarà un etto circa, non è che cosa sarà mai? Un etto e mezzo, due etti. Essendo vegetariano, poi non metto neanche, che ne so, il ragù non lo mangio, quindi ho anche quei grassi in meno. Però nonostante tutto sono ingrassato di 10-12 kg nel giro di 6-7 mesi. Volevo capire se la dottor Ungaro, Federico è molto sedentario, fa un lavoro che non gli permette di fare attività fisica, un belletto di pasta se la mangia a pranzo, è vegetariano. A pelle, così, che consigli può dare a Federico? Il mio consiglio è quello di compilare il nostro questionario, Federico, perché... Quello senz'altro, poi diciamo che ha messo un po' in disparte, dando per scontato che sia impossibile, i problemi centrali, cioè dire non posso fare attività fisica. Io capisco le difficoltà, però bisogna rivedere un attimo le proprie priorità. Nel caso comunque specifico tenderei a ridurre un po' l'introito di carboidrati, che sembra essere ovviamente la variabile che pesa di più. Riconoscete questo suono? 349-238-6666, chi ci ha ascoltato sa. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, per l'appunto, e poi ritorniamo subito dopo insieme. Essere e benessere. Dottor Ungaro, di qua proprio non, lei è molto rigoroso, bisogna affiancare ad uno stile alimentare corretto sicuramente un po' di movimento. Beh, Nicoletta, era un po' il tema di quello che abbiamo appena detto, certo. Cioè, bisogna reimpostare un po' le priorità giuste, anche volersi un po' più bene e prendersi un po' di tempo per se stessi. Mi viene da dire, per esempio, per Silvia, che la caramella più buona non è quella che scarta, ma è magari il sorriso che dedica a se stessa ogni giorno, o il tempo che decide di trovare. Sì, ma prendiamo questa cosa, questa frase del dottor Ungaro come cartolina che mandiamo alle nostre amiche all'ascolto dell'8 marzo. Prendete appunti alti e bassi. Infatti stiamo scrivendo. Devo dire una cosa però, che Paolo si è presentato con la mimosa e io ero con bassa. Oggi una giornata importante, una celebrazione per tutte le donne. Abbiamo in linea Silvia, ci sei sempre? Mimosa anche a te, mi raccomando. Grazie. Hai sentito che il dottor Ungaro è diventato anche un poeta per te. Ma il dottor Ungaro ha delle parole d'oro proprio quando dice deve trovare del tempo per se stessi. Vedi, un uomo hanno rotto lo stampo di questi uomini. Giovanni, buongiorno da Roma. Buongiorno Nicoletta, che piacere sentirla. Oh, anche per me, Giovanni. L'ascolto da anni, tutti i giorni. Fantastico, e come sta Giovanni? È una bellezza. Lei è l'uomo ideale. Mi dica la domanda, perché siamo di corsa. Sì, senz'altro. Io sono uno sportivo, sono un danzatore. Volevo dire, faccio uso un danzatore? Sì, un danzatore professionista. Insegno anche Pilates, vabbè. Volevo dire, io faccio uso di Guaranà da tanto tempo, sì, soprattutto in periodo di primavera. Sì. Volevo sapere se mi poteva portare a delle conseguenze. Chi vuole rispondere, dottor Ungaro o dottoressa Reverso? Il Guaranà, diciamo, è molto utilizzato, un energizzante, quindi non pone particolari problemi, essendo un nutraceutico, un integratore naturale. Però io raccomando sempre, con questi tipi di sostanza, di fare dei cicli, anche per mantenere un certo grado di efficacia, quindi magari pescarlo in primavera e in autunno e tralasciarlo in altri periodi, in modo da mantenerlo come un'integrazione efficace. Dottoressa Reverso, c'è un alimento che funziona un po' come Guaranà? Beh, il più simile al Guaranà è il caffè, perché però... il Guaranà comunque, essendo un energizzante, agisce anche un po' sul battito cardiaco, sull'attenzione. Adesso non so se Filippo ha qualcos'altro in proposito. Come alimento più vicino al Guaranà io vedo solo il caffè. Però... il cioccolato fondente all'80% per noi donne, visto che oggi è la giornata delle donne, ci può dà andare quel bene. Pizzico in più e quel brio in più che secondo me non guasta. Allora, Intanto per Silvia abbiamo una grande donna che è venuta a sostenerle e a fare il tifo per lei. In linea con noi abbiamo Anna Tatangelo. Ciao Anna. Buongiorno a tutti, auguri a tutte le donne. Auguri anche a te, bella Anna. Senti, grazie. Tu sembri sempre carica di energia, ma noi naturalmente ti vediamo sul palco, e la legge dello spettacolo lo impone. Ma dietro le quinte anche tu avrai i tuoi momenti di stanchezza e cali di energia, gli improvvisi, istantanei, rapidi, vuoti di memoria, i buchi nello stomaco. Dici. Io vado al cioccolato. Mi riprendo col cioccolato, anche perché finisco le prove qui a Ballando e poi con la casa e ho altre prove da fare, nel senso che sono sempre dietro a mia figlia, quindi cerco di tirarmi su con la cioccolata, il cioccolato fondente, ecco, e questa è la mia arma segreta. Senti, Anna, tra l'altro tu sarai nella semifinale di Ballando con le Stelle e quindi fai anche veramente, bruci un sacco di energie ballando. Molte energie, infatti tutti qui abbiamo perso qualche chilo da quando siamo entrati, però è una palestra, diciamo, piacevole, perché comunque impari a ballare, comunque ti diverti, ed è una bellissima esperienza. Speriamo di arrivare fino alla fine, adesso sabato ci saranno le semifinali e io mi auguro di arrivare fino alla fine, ecco, veramente, dai. Senti, allora facciamo così, fatevi uno scambio, tu fai il tifo per Silvia e Silvia farà il tifo per te, che dite? Sì, Silvia? Fate questa sorta di patto. Ma senti Anna, regala a Silvia una cartolina radiofonica con un tuo consiglio. Noi ad ogni protagonista di Mangia con me abbiniamo un personaggio noto dello spettacolo. L'altra, per Davide della scorsa settimana, abbiamo avuto Giacomo Porretti che ci ha detto: sono nato brutto, poi mangiando bene sono diventato bello. Anna, tu sei già nata bella, ma qual è la cartolina che vuoi regalare alla nostra Silvia? Oddio, la cartolina in che senso? Una frase che possa sostenerla, che possa aiutarla, forza Silvia, mangia con me, ballando, prova a ballare, un consiglio, prova il latinoamericano, vai coi semi di lino, mangia la cioccolata, dedicale una canzone. Sicuramente, e ascolta la musica. La musica è fa sempre da ottima compagnia, anche nei momenti più tristi è la cosa che alla fine, almeno con me, ci riesce, ce la fa. Allora, quindi, Anna, noi ti vogliamo fare cioccolata. Cioccolata e musica, però. La cioccolata fondente, Silvia dovrà, poi vive a Torino, è la città della cioccolata e non avrà assolutamente problemi a trovarlo. Mentre Anna, tanto che ti salutiamo, ti facciamo ascoltare la canzone, il brano che gli Alti e Bassi, che sono il nostro gruppo che ci sostiene in questa avventura di Mangia con me, hanno scelto per la nostra Silvia, e vedrai che in qualche modo siete in linea. Intanto Anna, tanto che ti saluto, prova ad ascoltare. Grazie ad Anna Tatangelo. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. Per Silvia e per tutte le donne come Silvia, quindi Nicoletta compresa, che si sentono un po' in calo di energia. 8 marzo, tiriamoci su, ma non solo l'8 marzo. Intanto abbiamo un Mirella che ci chiama dalla provincia di Lucca. Mirella, buongiorno. Sì, buongiorno. Mirella, auguri, mi dica. Grazie. Io volevo, siccome mi piacerebbe proprio avere il libro di Ongaro, sì. E che poi io vorrei anche dirgli al dottore di non lasciarci mai a Radio 24, è sempre qua, anzi ce l'ho, ecco. Che lo sentiamo sempre volentieri, e poi i consigli che dà sono piacevoli, ecco. Io grazie, signora Mirella. Mirella, non gli dica tanto così, perché poi si monta la testa. Lei vorrebbe avere il libro quindi ha risposto al nostro quizzettone. Adesso io con sì, tutti e qual è la terza risposta, cioè soluzione, che sarebbe? Sarebbe yogurt, fette, biscottate integrali, su cose integrali, ecco, la mattina per avere una buona carica. Quindi per mangiare meno il pranzo. Quindi, insomma, pranzo. Allora, dottor Ongaro, Mirella, la... Però io darei un... se posso, vorrei dire una cosa che ho provato proprio, che per esempio anche se uno sta fuori, no? E non ha le cose, se, cioè è un po' difficile trovare le merendine, l'integrale, sì. Le banane. Allora Mirella ha dato la risposta esatta. Io vi ricordo che oggi il dottor Ongaro è sul nostro sito pronto a rispondere alle vostre domande in consultazione con Silvia e Davide dalle 4 alle 5. Grazie a tutti, buona giornata, domani.